50 domande su Gesù. Come si scrissero i Vangeli? La Chiesa afferma senza dubbi che i quattro Vangeli canonici trasmettono fedelmente quello che Gesù, figlio di Dio, vivendo tra gli uomini, fece e insegnò. Così il Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica Dei Verbum, numero 19. Questi quattro Vangeli hanno origine apostolica. Infatti, quello che gli apostoli predicarono per mandato di Cristo, poi, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, loro stessi e i loro discepoli ce lo trasmisero per iscritto come fondamento della fede. Ancora Costituzione Dogmatica Dei Verbum numero 18. Gli scrittori cristiani antichi si interessarono di spiegare come gli evangelisti realizzarono questo. Sant'Ireneo, per esempio, dice: Matteo pubblicò fra gli ebrei, nella sua propria lingua, una forma scritta di Vangelo, mentre Pietro e Paolo in Roma annunciavano il Vangelo e fondavano la Chiesa. Fu dopo la sua dipartita, quando Marco, il discepolo e interprete di Pietro, ci trasmise anche per iscritto quello che era stato predicato da Pietro. Anche Luca consegnò in un libro quello che era stato predicato da Paolo, di cui era compagno. Poi Giovanni, il discepolo del Signore, lo stesso che aveva riposato sul suo petto, pubblicò anche il Vangelo mentre risiedeva in Efeso. Commenti molto simili si trovano in Papia di Ierapoli o Clemente di Alessandria. I Vangeli furono scritti dagli apostoli Matteo e Giovanni o da loro discepoli, Marco e Luca, però sempre raccogliendo la predicazione del Vangelo da parte degli apostoli. L'esegesi moderna, con uno studio molto dettagliato dei testi evangelici, ha spiegato in maniera molto dettagliata questo processo di composizione. Il Signore Gesù non inviò i suoi discepoli a scrivere il Vangelo, ma a predicarlo. Gli apostoli e la comunità apostolica lo hanno fatto così e, per facilitare il lavoro di evangelizzazione, misero parte di questo insegnamento per iscritto. Finalmente, nel momento in cui gli apostoli e quelli della loro generazione cominciavano a scomparire, gli autori sacri scrissero i quattro Vangeli raccogliendo alcune cose dalle molte che già si trasmettevano verbalmente o per iscritto, sintetizzandone altre o sviluppandole avendo cura della condizione delle chiese che ne erano destinatarie. Pertanto, può concludersi che i quattro Vangeli sono fedeli alla predicazione degli Apostoli su Gesù e che la predicazione degli Apostoli su Gesù è fedele a quello che fece e disse Gesù. Questa è la strada per cui possiamo dire che i Vangeli sono fedeli a Gesù. Di fatto, i nomi che gli antichi scritti cristiani danno a questi testi, ricordi degli Apostoli, commentari, parole sopra il Signore, come riporta San Giustino, sia nell'Apologia che nel dialogo con Trifone, orientano verso questo significato. Con gli scritti evangelici accediamo a quello che gli apostoli predicavano su Gesù Cristo. È noto che non possediamo il manoscritto originale dei Vangeli, come di nessun'altra opera letteraria dell'antichità. Gli scritti si trasmettevano attraverso copie manoscritte su papiro e successivamente su pergamena. I Vangeli e i primi scritti cristiani seguono questo tipo di trasmissione. Il Nuovo Testamento lascia intendere che alcune lettere di San Paolo sono state copiate e si trasmettono in un corpo unico di scritti, e la stessa cosa avviene per i Vangeli. Le testimonianze di San Giustino, Sant'Ireneo, Origene, indicano che i Vangeli canonici furono copiati subito e circolavano insieme. Il materiale utilizzato nei primi secoli dell'era cristiana fu il papiro, e dal III secolo si iniziò a utilizzare la pergamena, più resistente e durevole. Solo dal XIV secolo si utilizzò la carta. I manoscritti dei Vangeli che conserviamo, dopo uno studio attento di ciò che chiamiamo critica testuale, ci mostrano che in paragone alla maggioranza delle opere antiche, l'affidabilità del testo che abbiamo è molto elevata. In primo luogo, per l'alto numero di manoscritti che abbiamo. Dell'Iliade, per esempio, abbiamo meno di 700 manoscritti, però delle altre opere, come gli Annali di Tacito, ne abbiamo pochi. E dei primi sei libri solo uno. Del Nuovo Testamento invece possediamo 5.400 manoscritti greci, senza contare le innumerevoli copie antiche in altre lingue e le citazioni del testo in opere di scrittori dei primi secoli. Inoltre esiste il problema della distanza tra la data della composizione del libro e la datazione del manoscritto più antico. Mentre per le moltissime opere classiche è di quasi 10 secoli, il manoscritto più antico del Nuovo Testamento, il papiro di Rylands, è posteriore alla composizione del Vangelo di San Giovanni di 30 o 40 anni. Del III secolo abbiamo papiri Bodmer e Chesterbitty che mostrano come i Vangeli canonici già raccolti si trasmettevano in codici. Dal IV secolo le testimonianze scritte non si contano più. Nel comparare la moltitudine dei manoscritti si scoprono errori, interpretazioni, eccetera. La critica testuale dei Vangeli e dei manoscritti antichi esamina le varianti significative cercando di scoprirne l'origine. A volte un copista cerca di armonizzare il testo di un Vangelo con quello di un altro cerca di spiegare ciò che gli sembra un'espressione incoerente, eccetera. E stabilire in questo modo quale poteva essere il testo originario. Gli specialisti concordano nell'affermazione che i Vangeli sono i testi che meglio conosciamo tra quelli antichi. Basano questa convinzione sull'evidenza di quanto detto sopra e anche sul fatto che la comunità che trasmette i testi è una comunità critica, persone che basano la propria vita su ciò che viene affermato nei testi e che ovviamente non impegnerebbero la loro vita su idee create occasionalmente.